Sono Bruno Abue, nato a Valdagno nel 1940, ho lavorato in Marzotto dal 57 al 60, ai primi del 63, sono andato al centro studi della CIS a Firenze, sono rientrato a Vicenza, in provincia di Vicenza, nel 64 e ho cominciato a fare sindacalista praticamente, a tempo pieno, prima lo facevo in azienda. Nel 64? Nel 64 a tempo pieno. Prima l'ho fatto 5 anni, ma ero, adesso si chiamano delegati, no? Certo. Erano attivisti sindacali naturalmente. 64, un anno in cui già le cose cominciavano a scaldarsi. Anche nel 62. E poi sono stato segretario praticamente provinciale dei tessili della CIS, della filta CIS dal 70 al 76, dal 76 al 91 segretario provinciale della CIS. Dal 91 al 94 sono stato segretario regionale della CIS. Questo è un po' il percorso sostanzialmente. Ecco, io oggi ho rivisto questa fotografia del 19 di aprile del 1968, però è la fotografia emblematica della statua di Marzotto che è qui a Valdagno, abbattuta. Ma prima di arrivare a quello volevo chiederle che anni erano, cioè come si arriva a questa contestazione così plateale. È un'avvertenza che praticamente era in piedi da 3 anni, che prevedeva da parte dell'azienda la richiesta di riduzione personale, di aumento di carichi di lavoro su macchinari ultra che vecchi, quindi che avevano 50 praticamente prima della guerra, e taglio anche di guadagni, modifica del sistema di cottimo, quindi praticamente una miscela esplosiva. Quanti erano gli addetti, gli operai? Però va distinto, eravamo circa 6-7 mila, però va distinto il fatto che c'erano gli stabilimenti tessili, due, uno a Valdagno e uno a Maglio, Valdagno e tessiture e tutta la preparazione e filatura, a Maglio lo stabilimento di filatura. E poi a Maglio c'era anche il comparto abbigliamento che occupava più di 1000 persone, insomma, quindi non una roba da pochetto. E quindi una dimensione molto molto ampia. Poi la Marzotto aveva anche stabilimenti fuori provincia. Aveva stabilimenti in quel tempo lì 68, prima c'era uno stabilimento anche a Pisa, chiuso nel 66, di tessitura, c'era uno stabilimento di tessitura a Manerbio che è stato chiuso qualche anno fa, e c'era la pettinatura a Mortara, è chiusa anche quella alcuni anni fa. E le vicende hanno avuto difficoltà di trattative con la loro dirigenza d'azienda, siamo andati avanti 2-3 anni con parecchi scioperi, cioè c'era incomunicabilità. Chi è che presiedeva l'azienda in quegli anni? A quel tempo era presidente dottor Giannino Marzotto, Giannino. E consigliere delegato era un certo ingegner Piantini, che secondo me era un po' lui l'artefice di questa. Il pensare di fare una ristrutturazione su macchinari vecchi, il rischio di mettere fuori gente dai posti di lavoro, parliamo del 68, quindi sono anni diversi, la Marzotto era ancora un'azienda importante, il miracolo economico aveva appena cominciato, e l'attività di supporto alla produzione e soprattutto anche all'occupazione delle piccole e medie aziende aveva cominciato a fine anni 50, primi anni 60, qui da noi come un po' dappertutto nell'Alta Italia. E quindi è stata una vicenda che si trascinava da alcuni anni, con alti e bassi, quindi siamo arrivati al punto quella mattina lì era stato programmato uno sciopero. Si usciva dagli stabilimenti il 19 aprile, avevamo fatto sciopero anche qualche giorno prima, però c'era incomunicabilità, proprio l'azienda come non interessasse niente, la situazione, la tensione della gente aumentava sempre più, fatalità quella giornata lì è successo che noi avevamo proclamato lo sciopero, il turno di notte è uscito alle 6, si è fermato sui gradini degli stabilimenti, il primo turno che entrava alle 6 è uscito alle 7, quindi abbiamo bloccato le portinerie, quindi tutti gli impiegati eccetera eccetera. Lì però c'erano già i poliziotti, quindi i primi scontri sono venuti alle 6:30, 7 di mattina, e poi quant'anni a vicende sono proseguite praticamente per tutto il giorno fino a, con aumento della carica, della tensione della rabbia, sai, sono cose che sai quando iniziano e mai quando. Poi sono venuti dei fatti, verso le 6:30, 7 di sera, la polizia ha fermato alcune persone, alcuni lavoratori. Noi abbiamo chiesto la liberazione di queste persone, erano state portate dentro in portineria a Valdagno, e la polizia ci ha detto che dovevamo sgomberare perché ormai erano stanchi anche loro, perché alle 7 dal mattino alle 7-8 di sera. Lì ha cominciato qualcuno a tirare sassi, la polizia ha caricato, ha cominciato le bombe lacrimogene, e sai, insomma, quando cominciano queste cose la gente ovviamente anche si difende, e quindi la polizia lanciava le lacrimogene, usavano ovviamente i loro strumenti di lavoro e la gente si difendeva in qualche modo. Quindi la questione ha assunto una dimensione sfuggita di mano a tutti, a tutti. E siamo arrivati praticamente alla sera, sono venuti anche dei danni, la caduta della statua. Ecco, la statua quando è stata abbattuta? Verso le 8 di sera. Verso le 8 di sera. Ma è stata, come dire, una strategia? No, è stato un momento, non era stata una strategia, metti insieme. Montare di rabbia, quindi dopo l'occasione che lì vicino c'era un cantiere edile, quindi c'erano le corde, cioè, proprio di fronte anche, proprio. Perché tutto quindi, questo avviene in uno spazio ristretto, perché chi non conosce Valdagno magari non si rende conto, ma tra la portineria, il centro e in mezzo c'è la statua. C'è la statua, quindi siamo a livello di neanche un chilometro, insomma, quindi. E comunque è capitato questo, poi la sera verso le 9:30, 10 è arrivata la Cerere, il reparto Cerere di Padova, e ha cominciato l'astrellamento, insomma. Quindi questa è la vicenda della giornata, è finita con. La gente, ovviamente c'era fuori tutta la città, però quando arriva la polizia questi scontri erano duri. Ci sono stati 42 arresti e poi insomma la roba si sgonfiata, un rastreamento militare, quindi eravamo in questa situazione. 42 arresti, la città come ha reagito? Attonita, il mattino dopo lo sciopero non c'era, quindi eravamo di sabato, si lavorava anche di sabato. Io ero davanti alla portineria perché la notte l'abbiamo passata qui in giro, non mica io tra l'altro abito a Valdagno, e con il segretario dell'ora della CISL Guidolin, con altri amici, abbiamo passato la notte a casa mia aspettando le 5 di mattina per presentarsi davanti alla portineria per vedere la gente, c'erano tutti ovviamente gli emblemi degli scontri, i sassi, roba rotta eccetera. La mattina dopo la gente è rientrata in fabbrica. Ovviamente, cioè, non c'era programmato lo sciopero, attoniti tutti quanti, perché anche quelli che abitano fuori Valdagno abitavano, non erano ovviamente presenti, quindi si sono resi conto della drammaticità della cosa. Quindi questo è successo di venerdì, sabato la gente ha ripreso, domenica le fabbriche erano chiuse, salvo i turni di notte, ma insomma che lavoravano fino al mattino della domenica. Ecco, questa è stata la vicenda di una giornata caratterizzata, ripeto, di quella giornata di una vicenda che ha durato anche per tutto il 68 ancora dopo, ed è si è esclusa questa vicenda, questa grande vertenza, con l'accordo che abbiamo occupato gli stabilimenti nel 24 gennaio del 69, e gli stabilimenti tessili sono stati occupati per un mese giusto, fino al 23 di febbraio. Abbiamo fatto l'accordo, presente tutti i sindaci della vallata, 6 sindaci, presso lo stabilimento che allora era il copertificio di Trissino, a Trissino, e c'era ovviamente la direzione d'azienda, c'eravamo noi dei 3 sindacati, c'erano i 6 sindaci, lì si è costruito. Il dramma è stato che per un mese non si riusciva a parlare con l'azienda, insomma, quindi tu pensa che allora non c'erano le prebende o le possibilità di ognuno. Un cittadino di Valdagno della Vallata aveva un operaio, l'operaia, il papà, la mamma, un fratello che lavoravano in azienda, quindi rimanere senza reddito per un mese, ti rendi conto? C'era un'intera vallata che rimaneva senza stipendio. Sconquassata praticamente, perché ovviamente allora a quel tempo la Mazzotto era un punto di riferimento, era il lavoro, insomma c'erano anche piccole altre attività, ma insomma questa era la situazione di 40 anni fa. Abbiamo concluso con un accordo importante che ha riconosciuto per la prima volta in Italia il diritto di assemblea, fuori dall'orario di lavoro ma dentro in stabilimento, in sala mensa, ha riconosciuto per la prima volta in Italia il riconoscimento del consiglio di fabbrica, quindi parliamo a febbraio, perché dopo l'autunno caldo è venuto ovviamente in autunno con il rinnovo del contratto dei metalmeccanici nazionale eccetera, e quindi la costituzione dei comitati di reparto che avevano il compito, eletti direttamente dai lavoratori, che avevano il compito di affrontare tutti i temi di reparto, dall'ambiente, i carichi di lavoro, situazione ambientale, rapporti con il gruppo dirigente di controparte sostanzialmente. Questo era un po' un accordo importante che ha aperto una nuova fase, non subito, perché c'erano da ricostruire tutti i rapporti che dopo un anno, due anni di scontri erano lavoratissimi. Ecco, a proposito di rapporti, quelli con la famiglia Marzotto, come ne uscirono da questa vicenda? Ma lì c'è stato un passaggio all'interno loro praticamente, dopo queste vicende è rientrato ad assumere responsabilità massima il vecchio Conte Gaetano, e quindi ha fatto lui da transizione per un paio d'anni. Nel frattempo però c'era l'erede disegnato nel senso che aveva sempre lavorato, non era mai apparso, salvo in una fase in prefettura, subito dopo la faccenda della statua, perché avevamo fatto un accordo CIS e UIL sulle questioni. La CGIL non l'ha firmato perché c'era un preambolo che diceva che eravamo contro qualsiasi tipo di violenza. La CGIL a quel tempo non l'ha firmato, dichiarando che c'era violenza dei padroni, la violenza, e noi non potevamo accettare. La CGIL ha voluto 20 anni per cambiare, 30 anni dopo Guido Rossa hanno cambiato posizione rispetto a queste questioni qua. Prima erano i compagni che sbagliano, dopo il povero Guido Rossa, che era oltre a un grande alpinista anche un buon sindacalista, lavorava all'Ansaldo di Genova, ti ricordi? Quindi ecco, è subentrato a quel tempo lì, quindi torniamo al 70, nel 70 ha cominciato a apparire il Pietro Marzotto. Nel 71 ci ha proposto un piano di investimenti di grande respiro ed ha cominciato una nuova fase. Abbiamo ricostruito, la fabbrica è cambiata nel giro di qualche anno, rinnovata totalmente negli impianti, nei macchinari. Abbiamo dovuto affrontare mille problemi, però è una prospettiva diversa, che prima la prospettiva era macchinari vecchi su carichi di lavoro quasi raddoppiati, i cui tagli anche di guadagni di cotimo. Tieni conto che lo stipendio medio di un operaio qualificato a quel tempo era di 150.000 lire, insomma, su 160, 170, 180 ore, quindi mica, a quel tempo si faceva ancora 48 ore, insomma. Era stato ridotto il contratto del 62 di 2 ore, quindi facevamo praticamente 46 ore a settimana sostanzialmente a quel tempo, qui che era turnisti. Ecco, questa è un po' la vicenda. Si è cominciata una nuova fase che è stata difficile perché, ripeto, si doveva ricostruire un tessuto di credibilità, però siamo riusciti nel giro di un anno o due, noi del sindacato insieme con i lavoratori dei comitati di reparto che avevano autorità di contrattare, non perdere tempo, contrattare seriamente le cose, e va detto che abbiamo fatto un centinaio di accordi di reparto in due o tre anni. Cioè il sindacalismo, in Veneto proprio, anche il sindacalismo ha un approccio molto pratico. E quindi abbiamo ricostruito un rapporto, ma soprattutto anche ricostruendo e contrattando a livello di reparto tutte le condizioni, dai carichi di lavoro, ai guadagni di cotimo, all'ambiente, il risanamento ambientale, perché ovviamente fabbriche vecchie ti rendi conto, e soprattutto questa operazione che di avvio che ha iniziato il Pietro Marzotto, che poi l'azienda, se c'è ancora, è una delle aziende più importanti nel settore tessile e abbigliamento d'Italia e forse anche d'Europa, sebbene che Pietro Marzotto non c'è più dentro, ma voglio dirti, quelli che ci sono hanno ereditato un'azienda bene attrezzata, capace di affrontare le sfide che comunque il mercato internazionale propone, quindi se l'azienda è ancora qua il merito va anche ai sindacalisti, sindacati, CGL, CISUIL, all'azienda, nei suoi nuovi quadri dirigenti, e alla volontà reciproca di tutti che ci rendevamo conto che l'azienda Marzotto era un bene di tutta la comunità vicentina e valdagnese, soprattutto della vallata dell'Agno. Tieni conto che qui ci sono, in questa vallata, sei venuto in macchina, penso, no? Hai visto da Trissino, finisce a Requaro, su 6 comuni ci sono circa 60.000 abitanti. Ovviamente in questi anni si è sviluppata, c'è una zona industriale a un chilometro da qui, a quei tempi c'erano solo campi, insomma, in quella zona industriale. Adesso ci lavorano qualche migliaio di lavoratori, piccole e medie aziende, però insomma il tessuto connettivo di quella che è la realtà veneta, a partire dal punto della Piedemontana, Vicenza, Treviso, si sono sviluppate una serie di attività diversificate e alternative che hanno dato più corpo, insomma, quindi siamo usciti per fortuna dalla dipendenza esclusiva di una singola azienda, ma questo fenomeno aveva già cominciato a esserci praticamente, chiusa la parentesi di scontri sindacali. Dopo ci sono ancora stati scioperi, ci sono stati rinnovi di accordi, però lo spirito era reciprocamente più costruttivo. La rottura era avvenuta in quel 19 aprile, ecco, no, i tranquilli in quella fase, certo, simbolicamente con quel momento. È stato il momento, certo, più emblematico, però dopo la vicenda è continuato anche nella settimana successiva. Ecco, i tranquilli veneti dunque si erano in realtà portati avanti già con degli scontri molto duri, spesso si dice no, i veneti tranquilli che abbozzano, eccetera, in realtà non è così. Il Veneto è un palo più di tutto il Veneto, che il Veneto è complesso e ampio, quindi i veneziani non c'entrano niente col Veneto, per dire, ma comunque io parlo delle comunità nostre, quelle di zona medio-alpina vallata, insomma, ma è così anche nel Bergamasco, nel Bresciano, la Pedemontana, in Piemonte lo stesso, gli stessi problemi che avevamo qui, le vallate del Bergamasco, del Bresciano, la Valle Susa, Biella, per dire, no? Un problema. Qua lo scontro per l'ottusità in quella fase, di quella dirigenza aziendale, ci ha portato a una situazione di logoramento tra i rapporti, e che è scoppiato il bubone, insomma, sostanzialmente. Dopodiché siamo riusciti tutti quanti nella fase successiva, però ripeto, qualche mese dopo, aprile, quindi andiamo a gennaio, a febbraio, a ottobre del 68 abbiamo ricostruito una piattaforma unitaria, abbiamo presentato l'azienda, ci hanno detto dopo ignorati, e siamo arrivati a determinazione dopo alcune giornate di sciopero riprese dopo le festività di fine anno, eccetera. Vedevamo un muro da parte dell'azienda, ci siamo riuniti con tre organizzazioni sindacali qua alla sede della CISL a Valdagno, che allora era qua in via Marconi vicino al municipio, e abbiamo deciso come stasera l'occupazione per domattina. E l'occupazione è venuta in questo modo, che avevamo già stabilito i gruppi responsabili, che c'erano, allora c'erano ancora le commissioni interne, quindi parliamo di 40 anni fa, non c'erano i riconoscimenti dei consigli di fabbrica, sono venuti dopo, e avevamo incaricato tutti quanti, quindi la gente davanti alla portineria diceva a tutti chi entrava, da stamattina si occupa gli stabilimenti tessili, ognuno ha i suoi turni di 8 ore, entra in fabbrica, va in sala mensa e per 8 ore si rimanerà. Finito il turno va a casa, subentravano qui il secondo turno, qui il terzo turno e via via. Quindi abbiamo col comitato di occupazione preso in mano tutto, quindi ci siamo fatti consegnare dalle guardie, dai dirigenti, tutto quanto. Ovviamente non le carte, ma comunque la cosa era di una gravità estrema, perché c'era il rischio di sabotaggi, c'erano le macchine che funzionavano ancora, quindi abbiamo messo in sicurezza tutti gli impianti. Quindi c'erano 4.000 persone, 5.000 che occupavano gli stabilimenti, mica roba da poco. E avevamo stabilito delle ronde di giorno e di notte di controllo nei reparti per evitare che qualcuno potesse, sai, lo stato d'animo era quello, insomma, poi anche qualche infiltrati non c'erano, perché comunque controllavamo tutti quelli che entravano, che dovevano essere tassativamente dipendenti da Mazzotto, quindi col cartellino, controllavamo i cartellini, poi nessuno si infiltrasse, che non fosse gente estranea, e quindi abbiamo fatto un'opera quasi militare sostanzialmente da un punto di vista organizzativo. E dopo un mese gli stabilimenti sono stati riconsegnati all'azienda, che nel giro di un giorno o due sono potuti partire con molta tranquillità, insomma, come fosse stato chiuso un mese per ferie. 40 anni fa, dunque, stasera qui a Valdagno si parla proprio di quegli anni. Allora, in conclusione, visto che siamo nel 2008, sono passati 40 anni, allora la lezione di quegli anni trasferisce? Qui è un'iniziativa che riguarda 7 comunità della Piedemontana, Veneta, città impresa, quindi Friuli, città così legate a Friuli, Veneto, Trentino, Alto Adige, quindi che hanno una storia prima della guerra. Marzotto ha quasi 200 anni di vita, Nerossi ne aveva di più, praticamente qualche decennio in più. Quello che ci deve insegnare è che comunque il nuovo non ci deve far paura. Io ho sempre sostenuto che è meglio avere un imprenditore cattivo ma bravo che uno che si arrocca ed è mono, si dice in Veneto, perché quello cattivo e bravo, se con i dovuti correttivi, riesce anche a capacità di affrontare e risolvere i problemi. Quelli che non hanno qualità di capire anche la controparte portano le aziende al fallimento, e di questi casi ne abbiamo avuto tanti in giro. Quello che possiamo dire noi, parlo per me, io ho fatto 40 anni sindacalista, quindi ho fatto di tutto per tenere aperte le aziende, mai per chiuderle, anche se qualche caso mi è costato dover occupare le aziende e magari tribolare assieme a tutti gli altri e ricerca di nuovi imprenditori. Però direi che il più delle volte ci siamo riusciti, non è modestia, è la realtà del vicentino, insomma, riconosciuta, che ci è riconosciuta un po' da tutti. Quello che deve insegnare quelle vicende, quegli episodi, è che il mondo cammina, va avanti, che l'intelligenza umana e delle parti in causa deve sempre trovare il punto di incontro a livello più alto, perché in questo modo facciamo l'interesse della gente, da un lato dell'impresa certamente, ma anche di chi nell'impresa ci lavora e ci vive.